Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Allora, qualche volta per attirare l'attenzione dei media ci sono dei gesti a volte forti, qualche volta folcloristici da compiere, ma la manifestazione che si sta tenendo in queste ore in alcune città italiane, soprattutto a Roma, davanti alla sede dell'Antitrust, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, vuole richiamare l'attenzione su un tema che ha ben poco a che fare con il folklore. Le quattro associazioni dei consumatori che da poche settimane si sono riunite nel comitato denominato Casper, un comitato contro le speculazioni e per il risparmio, sono l'ADOC, il Codacons, il Movimento Difesa del Cittadino e l'Unione Nazionale Consumatori, stanno manifestando contro il caro vita e contro la prevista stangata autunnale di prezzi e tariffe che, secondo i loro calcoli, potrebbe tradursi in un aggravio nelle tasche delle famiglie italiane di almeno 900 euro in più in un anno, quasi uno stipendio per qualcuno. Per non parlare poi del tema della disoccupazione che abbiamo appena toccato nel giornale radio, qualcuno questo stipendio neanche lo percepisce più. Allora, naturalmente le preoccupazioni sono molte. Qual è la parte di folklore di cui parlavamo? Che le associazioni dei consumatori avevano promesso di organizzare anche una pomodorata, cioè di lanciare pomodori contro i responsabili delle speculazioni sui prezzi che colpiscono le famiglie. Noi onestamente speriamo che nessuno sia stato colpito a pomodori. Oggi cercheremo di capire invece per bene le ragioni di questa nuova discesa in piazza e quante preoccupazioni ci sono nel portafoglio delle famiglie italiane. Prima di tutto vi ricordo che potete intervenire all'800 24 00 24, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666 per raccontarci quale aumento di recente o in previsione aggravato e graverà sulle vostre tasche e chi simbolicamente vorreste prendere a pomodori in faccia perché ritenete un po' responsabili, insomma, di questo peggioramento anche delle vostre condizioni finanziarie. Noi stamattina abbiamo un bel po' di ospiti, ci accompagneranno due associazioni dei consumatori e tutti i rappresentanti sono lì in piazza in questo momento. Cominceremo con Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino. Presidente Longo, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. A cui passerà poi il testimone Massimiliano, che passerà il testimone a Massimiliano Dona, segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori. E poi per tutta la trasmissione ci terranno compagnia, quindi Dona lo sentiamo più tardi, Stefano Masini, responsabile ambiente e consumi di Coldiretti, che ha deciso quest'anno di manifestare insieme alle associazioni dei consumatori. Masini, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie di essere intervenute. Naturalmente grazie anche al professor Carlo Scarpa, professore straordinario di economia politica presso l'Università degli Studi di Brescia, esperto di liberalizzazioni, lo scomodiamo spesso per tante questioni. Oggi lo abbiamo interpellato nella sua qualità di presidente di Utilitatis, che è l'istituto di ricerca fondato da Federgas Acqua e dalle principali aziende italiane che operano nel settore idrico, perché la voce acqua pesa un bel po' sul portafoglio delle famiglie. Professor Scarpa, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E allora, io vi ho ricordato i numeri per intervenire e io mi aspetto davvero tanti contributi da voi, appunto famiglie, perché voglio proprio capire quanto vi costa riempire il carrello della spesa, quanto vi costano le bollette, quale è la voce che grava di più sul vostro bilancio, e quindi animiamo un po' anche noi, simbolicamente partecipiamo stamattina alla manifestazione di Roma, che peraltro non è solo a Roma ma è anche a Salerno, a Foggia, Catania. Peraltro è anche molto interessante che siano state scelte tre città del sud e nessuna del nord, e adesso ci faremo raccontare anche le ragioni dagli esponenti delle associazioni dei consumatori. Ma nella nostra scheda andiamo subito a riepilogare le ragioni di questa contestazione. Si preannuncia un autunno impegnativo per le tasche degli italiani, con la registrazione di un deciso aumento dei prezzi che arriva a 902 euro annui a famiglia. Tra questi, più 191 euro per gli alimentari, più 189 per l'abitazione, più 195 per i trasporti. La denuncia arriva dalle principali associazioni dei consumatori, che a tal proposito hanno di recente dato vita al Casper, Comitato contro le speculazioni e per il risparmio. Il caro prezzi sembra colpire tutte le più importanti voci di spesa. Crescono nettamente le spese destinate ad auto, ferrovie, banche e assicurazioni. Il premio medio dell'RC Auto aumenterà dell'8%, per un importo pari a 33 euro. Lievitano anche le tariffe dei servizi essenziali per l'abitazione: 52 euro per il gas, 18 per i rifiuti e 8 per l'elettricità. E crescono di 24 euro anche le spese per il servizio idrico: cui le famiglie italiane destinano in media circa 200 euro all'anno, per un consumo di 150 metri cubi. In particolare, sono molto forti gli aumenti tra gli alimentari, e nello specifico tra i beni agricoli. Si va dalla ripresa del grano in seguito agli eventi di quest'estate, per arrivare addirittura al picco del succo d'arancia, registrato proprio nella giornata di ieri. Un carrello della spesa sempre più pesante, insomma, con un potere d'acquisto che nel 2009 si è ridotto in media del 2,6% lungo tutto lo stivale. 800 24 00 24, numero verde per le vostre considerazioni, 349 238 6666, anche questo numero per le vostre considerazioni. In questo caso ce le potete scrivere con il numero verde, ovviamente, invece avete la disponibilità e la possibilità di intervenire in diretta. Peraltro, siccome questa era una provocazione con la quale volevo partire anche io, saluto un ascoltatore che ci scrive, Michele, che dice: ma com'è che con questa crisi sprechiamo i pomodori? Presidente Longo, Antonio Longo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino, stamattina ho rilevato qualche prezzo. I pomodori rossi a grappolo costano 1,90 euro al chilo, gli insalatari 1,95 euro, i ciliegini 2,80 euro al chilo. Siamo fuori stagione, ma ne state sprecando così tanti addosso a qualcuno stamattina? No, rassicuriamo l'ascoltatore giustamente preoccupato che noi si potesse sprecare qualcosa di così prezioso. In realtà abbiamo utilizzato per simulare in qualche modo una sorta di attacco, di messa a berlina di tutti coloro che nella filiera agroalimentare speculano, abbiamo utilizzato dei pomodori non commerciabili che dovevano essere buttati, li abbiamo in qualche modo scagliati contro questi bersagli ideali nei quali volevamo rappresentare i motivi di speculazione. Ecco, anche perché immagino che nessuno si sia presentato a prendersi dei pomodori in faccia stamattina, quindi simbolicamente a chi li avete tirati addosso, Presidente Longo? Simbolicamente l'avvocato Rienzi, presidente del Codacons, si è fatto... Non avevo dubbi, non so perché... Si è fatto, come dire, personificazione degli speculatori, per cui ha indossato una maglietta che avevamo preparato con da una parte il comitato Casper con le quattro associazioni, dall'altra invece i nomi delle categorie che noi individuiamo come speculatori, commercianti, autotrasportatori, altri soggetti che naturalmente non tutti ma in parte sono responsabili di queste azioni speculative, e quindi è stato lui, diciamo, la vittima predestinata. Presidente Longo, se andassimo incontro a tutti gli aumenti che avete previsto, e io sono assolutamente sicura che abbiate fatto delle previsioni accurate, dei calcoli esatti e quant'altro, però insomma l'inflazione dovrebbe di nuovo esplodere. Ci dice veramente quelle che sono veramente quelle che vi preoccupano di più, quali graveranno fondamentalmente sulle tasche delle famiglie italiane, soprattutto quali sono i settori maggiormente colpiti dalle speculazioni che denunciate? Guardi, noi abbiamo iniziato dall'agroalimentare perché è la spesa rilevante di tutte le famiglie, soprattutto delle famiglie a più basso reddito. Come sappiamo, la spesa alimentare incide sui pensionati, sui cittadini a più basso reddito per il 40-50% del budget mensile, poi man mano che i redditi salgono naturalmente questa incidenza diminuisce. Quindi abbiamo iniziato dalla spesa quotidiana, ma siamo altrettanto preoccupati per quello che riguarda le assicurazioni, i servizi bancari, i servizi di trasporto, come anche quelli di alcuni altri servizi essenziali come l'acqua, il trasporto pubblico locale, che sono aumentati in questi anni di decine e decine di punti percentuali. Sì, sì, infatti ad un tasso doppio, triplo rispetto all'inflazione. Ecco, quello che abbiamo rappresentato proprio visivamente nello stand della Coldiretti, che voglio ringraziare, è stata qui presente col presidente Marini e ha incontrato insieme con noi il collegio dell'antitrust, nella rappresentazione di Coldiretti si evince subito il problema. Il pomodoro viene pagato 0,20, 0,30, forse anche meno al produttore, all'agricoltore, noi paghiamo un litro di passata, anzi tre quarti, 0,75 di passata di pomodoro, 1,20, 1,50 euro, e lei ha citato alcuni prezzi di pomodori che vengono venduti a 1,50, a 1,90 al consumatore finale. E infatti da qui tutto il dramma della filiera italiana, sulla quale poi immagino che Masini possa essere più preciso di me. Esattamente, anche Scarpa poi, se vorrà intervenire, naturalmente coglieremo volentieri le sue tesi. Il tema della filiera qua veramente, sono 7 anni che faccio questa trasmissione e ogni anno ci ritroviamo a discutere sempre dei stessi argomenti e qua non si trova mai una soluzione a nulla. Io tra l'altro tra un minuto e mezzo, credo forse ancora meno, devo andare in pausa. pausa, però volevo sentire anche gli altri interlocutori, cominciando con Stefano Masini della Coldiretti, perché insomma anche loro hanno voluto aderire, si sono voluti mettere dalla parte dell'Associazione dei Consumatori quest'anno. Masini? Sì, essere anche disponibile ad un'eventuale indagine che l'autorità garante vorrà realizzare, così come ha annunciato, anche con l'ausilio della Guardia di Finanza, per rendere trasparenti le fasi. Sono gli stessi problemi più generali, ma ogni anno probabilmente si individuano delle varianti. La variante che deve essere posta sotto controllo quest'anno è legata al comportamento di alcuni industriali che in aree delimitate del centro-sud si sono resi responsabili di comportamenti noi riteniamo in violazione dei contratti, vale a dire hanno omesso e ritardato il ritiro dei prodotti, dei pomodori, che sono chiaramente deperibili in campo, facendo precipitare i prezzi. E noi riteniamo che ci siano dei comportamenti collegati, dei comportamenti comunque in grado di ledere le regole fondamentali della concorrenza. Facendo precipitare, Masini, i prezzi che pagano a voi, ma non quelli al supermercato. Ecco. È evidente, la forbice appunto, di cui parlava Antonio Longo ha reso evidente dal fatto che in campagna quest'anno si sono pagati molto meno i pomodori, perché sono stati deprezzati, dequalificati, declassificati, e invece il prezzo finale al consumatore tende sempre più ad aumentare. Allora, quindi questo è anche il motivo per cui sono stati presi simbolicamente i pomodori questa mattina, a rappresentare un po' tutto il tenore della contestazione di oggi, quindi il pomodoro da portare davanti all'antitrust affinché l'autorità garante della concorrenza del mercato sollevi in maniera vigorosa e accolga appunto la protesta dei consumatori. Ci dobbiamo fermare, abbiamo un paio di minuti di pausa, chiedo un attimo di pazienza ancora al professor Scarpa, ad Eddie dalla provincia di Monza, che vuol già raccontarci con che fatica arriva alla fine del mese. A tra pochissimo. E com'era facile prevedere, stanno arrivando davvero tante testimonianze da parte vostra, tantissimi messaggi anche al 349-238-6666. Siamo rimasti alle contestazioni appunto che le associazioni dei consumatori stanno muovendo questa mattina davanti al Palazzo dell'Antitrust a Roma, la lotta al caro vita, soprattutto le denunce contro le speculazioni e la prevista impennata dei prezzi per tantissimi generi alimentari, ma non solo, appunto, che è prevista per i prossimi mesi. Si calcola qualcosa, hanno detto le associazioni dei consumatori, come 900 euro l'anno, io ho calcolato addirittura per qualcuno uno stipendio, e se consideriamo che siamo ad un livello di disoccupazione che è il più alto da 7 anni a questa parte, come ha certificato l'Istat stamattina, questo stipendio qualcuno non ce l'ha neanche più, quindi potete immaginare come potrà arrivare alla fine del mese anche con questi rincari. Volevo sentire un commento del professor Carlo Scarpa su tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. Noi spesso l'abbiamo interpellata sul tema delle liberalizzazioni, professor Scarpa, poi la vorrei sentire sulla quella che alcuni giornali ad agosto hanno definito la beffa delle tariffe, che continuano ad aumentare, l'inflazione all'1,6%, ad agosto qua invece si tratta di rincari tra il 5 e il 6% per acqua, luce, rifiuti e quant'altro. Il tema delle inefficienze delle filiere, da quanto tempo viene interpellato dai giornalisti su questi argomenti, professor Scarpa? Da quando comincio a occuparmene e prima ne sentivo parlare, ci pensavo, è almeno 25 anni che ne sento parlare, cioè praticamente da quando mi sono laureato, e solo perché prima, se non ragazzino, probabilmente non mi occupavo tanto di queste cose. Però francamente vedere le associazioni dei consumatori accanto a quelle degli agricoltori al riguardo lo trovo leggermente ironico, semplicemente perché gli agricoltori è da decenni che conoscono questa situazione ed è da decenni che non provano ad alzare un dito per cambiare radicalmente la struttura del modo in cui loro si rapportano al mercato, ovvero continuano a lamentarsi dei rapporti con la grande distribuzione, dei rapporti con i grossisti, dei rapporti con le imprese di trasporto, ma hanno fatto qualcosa per riorganizzare veramente il settore dell'agricoltura? Purtroppo no, continuiamo a mantenerci un settore agricolo ancora tra i più arretrati d'Europa. Schiacciatissimo. Signori, è evidente che qui abbiamo dei problemi reali. Però per esempio i pastori della Sardegna hanno protestato vivacemente la scorsa estate, è successo, questo forse è stato l'episodio di cronaca più rilevante, quindi lei insomma ritiene che ovviamente magari una manifestazione di protesta pur clamorosa non sia sufficiente? Ma il problema non è protestare, il problema è riorganizzare il proprio business, e vuol dire andare a cambiare un sistema di piccola agricoltura, piccoli fondi agricoli andando a industrializzare il settore, eccetera, eccetera. Si vuole andare su questa ristrutturazione? Bene, se no è chiaro che continueremo a lamentarci da qui all'infinito. Masini, io devo farla subito replicare, insomma, mi pare di capire che le associazioni non rappresentino adeguatamente le esigenze degli agricoltori e tutto questo poi si scatena e va a discapito del consumatore finale. Chiaramente debbo dissentire dall'analisi del professore se questa analisi non tiene conto dei progetti che nel periodo più recente Coldiretti in particolare ha maturato, proposto e realizzato in parte, facendo degli esempi come quello dei mercati di vendita diretta, che oggi rappresentano un canale di distribuzione commerciale stimato intorno al 8-9%, sono 1500 punti vendita soltanto quelli organizzati dalla Coldiretti, con un incremento a tre cifre negli ultimi mesi. Sì, i mercati di campagna amica dei quali abbiamo tanto parlato, ma sono un po' pochini, Masini. Alla vendita diretta da parte delle imprese che si stanno velocemente riorganizzando per abbattere l'intermediazione di filiere, sono il 7% delle imprese iscritte alle Camere di Commercio. Quindi il professore ha ragione, ma dobbiamo tener conto che negli ultimi anni siamo di fronte ad un processo veloce e inesorabile di modifica e del quadro giuridico, perché l'agricoltore può accedere al mercato soltanto in virtù di una nuova disciplina 2001, e sia soprattutto in relazione all'esperienza che sul piano singolo delle imprese associate in termini cooperativi e soprattutto di rete è possibile oggi leggere sui mercati, incontrando direttamente il consumatore. Molto resta da fare, chiaramente noi parliamo delle distorsioni patologiche però, e quelle non spetta a noi risolverle. Tra l'altro, sa, rispetto alla cosa che ci raccontava prima delle motivazioni che hanno portato all'esplosione per esempio dei prezzi dei pomodori che citavamo qualche istante fa, lo stesso ascoltatore che era intervenuto all'inizio ha poi riscritto di nuovo questo Michele, insomma, che diceva perché sprechiamo i pomodori, ci ha riscritto di nuovo dicendo: io sono un autotrasportatore, che colpa abbiamo noi degli aumenti se stiamo lavorando a sottocosto? E insomma la colpa è anche della pressione fiscale. Beh, qui se dovessimo fare l'elenco di tutto ciò che porta ai prezzi finali, naturalmente quelli che poi noi dobbiamo sostenere quando andiamo a fare la spesa, dovremmo veramente fare una trasmissione che dura 5 ore. Stamattina non ce la facciamo. Saluto Massimiliano Dona, segretario generale dell'Unione Consumatori, oltre che rappresentante italiano nel gruppo consultivo consumatori presso la Commissione Europea. Anche Unione Consumatori, appunto, aderisce a Casper, questo comitato di cui raccontavamo la storia recentissima. Avvocato Dona, buongiorno. Buongiorno, veniamo proprio da Piazza Verdi, dove abbiamo battezzato Casper quest'oggi. E infatti ho sentito Antonio Longo, che era ancora là con gli altri suoi colleghi. Abbiamo già parlato di quelle che sono le voci di spesa che di più gravano in questo momento sulle tasche delle famiglie e quelle che rischiano di rincarare di più. Come ha sentito, ci siamo soffermati nella prima parte della trasmissione sul tema della agroalimentare. Adesso vorrei andare sulle tariffe, avvocato Dona, perché qua c'è anche questo problema di acqua, rifiuti che continuano ad aumentare a livelli doppi e tripli rispetto all'inflazione. Ma che succede? È davvero inspiegabile. Spesso, tra l'altro, si tratta di aumenti anche scarsamente percepibili dal consumatore, nel senso che non sempre saltano immediatamente all'occhio, senz'altro pesano alla fine del mese, ma sono quei costi che si tende un pochino a trascurare. Noi in questi giorni stiamo ricevendo molti reclami sull'agroalimentare, molti sulle assicurazioni, sulle polizze d'assicurazione, perché evidentemente se durante l'anno non si è fatto alcun sinistro può sembrare, deve sembrare strano che si paghino 100 euro in più dell'anno prima, ma sulle tariffe evidentemente il consumatore ha ancora scarsa sensibilità, diciamo che non sa di essere consumatore, si sente molto più consumatore quando si entra nel supermercato che non quando invece si paga un bene di consumo a tutti gli effetti, ad esempio qual è l'acqua o l'energia elettrica. No, poi tra l'altro paradossalmente il tema dell'assicurazione, che noi tocchiamo abbastanza spesso, era anche stato ampiamente preannunciato dalla stessa industria di settore, perché dice insomma qua noi non tornano più i conti economici e quindi sappiate già consumatori che le le tariffe tenderanno ad aumentare. Forse invece per l'altro ambito, diciamo, si fa un po' meno anche pressione mediatica. Ha ragione lei, insomma, viene un po' meno allo scoperto questo argomento. E però, insomma, poi ce lo dobbiamo affrontare. Tra l'altro, c'è un'ascoltatrice che ci scrive, credo sia, no, non so se sia maschio o femmina. Buongiorno, sulle mie uscite pesa molto la bolletta dell'Enel, nonostante sia molto attenta alle fasce orarie, l'importo è sempre più elevato, ma la differenza nelle varie fasce è già attiva. Sì, la tariffa bioraria è partita dal 1 luglio e non funziona neanche questa, avvocato Dona. Ecco, sul mercato energetico c'è da fare una riflessione. È un mercato liberalizzato da molto poco rispetto ad altri, quali quello ad esempio della telefonia, e ancora c'è scarsa consapevolezza nei consumatori, soprattutto c'è scarsa trasparenza nelle offerte. E sì che il marketing comincia a farsi aggressivo, cominciamo tutti noi a ricevere all'ora di cena la telefonata dell'operatore che, come qualche anno fa, ci chiedeva di cambiare piano tariffario telefonico, oggi ci chiede di cambiare gestore. È il bello, il dritto della medaglia, se vogliamo, della liberalizzazione. Il rovescio è che non sempre il messaggio è chiaro, e anche sulle diverse fasce orarie nelle quali utilizzare i nostri elettrodomestici bisogna fare, da parte nostra, più cultura nei confronti dei cittadini, da parte delle imprese forse un pochino più di trasparenza. Non dimentichiamoci un fatto, perché noi diamo per scontato alcune ovvietà. Il servizio energetico, cioè la bolletta, la stessa bolletta, è complicata. Non parliamo di chili di pomodoro o di scatti telefonici, parliamo di kilowattora. Si tratta di concetti con i quali bisogna anche fare un investimento culturale nei confronti dei cittadini. Noi lo diciamo da sempre, finché non avremo dei cittadini più capaci di scegliere, anche un mercato liberalizzato sarà molto meno potente di quanto potrebbe essere nell'abbattere i costi. Ieri sera ero a cena con degli assicuratori per una cena di lavoro che non vi sto raccontare perché non interessa a nessuno, ma mi facevano la differenza appunto proprio tra i prospetti informativi delle assicurazioni di casa nostra e quelle di altri paesi, e c'è naturalmente un abisso, perché noi veramente non siamo assolutamente chiari su questo. Anche questa è un'altra grande battaglia che abbiamo fatto e che stiamo facendo da molto tempo. Professor Scarpa, sul tema della liberalizzazione dell'energia voleva intervenire, so che ovviamente anche questo è un suo pane quotidiano. C'è il tema della tariffa bioraria, tante iniziative intraprese anche dall'autorità garante dell'energia nel nostro paese per rendere il comportamento degli operatori trasparente, chiaro verso gli utenti finali. Anche qua sembra un tirannosauro rex, insomma, inamovibile. Ma francamente io, rispetto alla concorrenza nei mercati energetici per il cliente finale, sono sempre stato molto molto scettico. Perché? Perché in realtà questa concorrenza riguarda soltanto l'ultimo pezzettino della filiera. Ovvero chi viene a farci queste offerte non è che può comprimere in modo tranquillo il prezzo all'ingrosso del kilowattora, che è quello chiaramente più pesante. In realtà i margini dell'ultimo segmento della filiera, quelli della vendita, sono già piuttosto piccoli, quindi purtroppo non è da questo che ci possiamo aspettare grandi risultati, ma da un cambiamento del mix energetico e da un miglioramento delle condizioni di concorrenza sul mercato all'ingrosso. È lì veramente che i consumatori possono ottenere buoni risultati. Un consiglio comportamentale alle famiglie: fare più lavatrici nelle ore serali? Questo è abbastanza ovvio, anche se poi all'interno dei condomini questo non è una cosa che abbia. Lo so, però dalle 7 alle 9 si può anche fare, non è mica detto che la si debba per forza accendere tra le 2 e le 3 di notte. Assolutamente, anche perché poi il rumore lo sentono i nostri vicini, ma lo sentiamo anche noi. Infatti. Ma senz'altro comunque prestare attenzione alle offerte che ci sono, che spesso sono effettivamente vantaggiose, ma in misura purtroppo molto limitata. Prima di salutare l'avvocato Dona, che pure deve abbandonarci appunto per altri impegni, le faccio sentire, avvocato, una testimonianza di un ascoltatore, perché altrimenti terminiamo la trasmissione senza ascoltarli ed è un peccato. Eddie dalla provincia di Monza. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Quanti ascoltatori. Sì, ci dica. Famiglia con due bambini e una moglie, naturalmente. Io ho una moglie e due bambine e sono libero professionista. Dico la verità, da un anno a questa parte sto facendo un po' al sabato e la domenica veramente i conti della spesa su ogni cosa, su qualunque scontrino vado a controllare, e devo dire la verità, a fine mese sta diventando qualcosa di veramente pesante a dire no, questo non si può comprare perché non c'è liquidità, veramente, quindi... Ed è da un anno a questa parte e sta diventando sempre più pressante questo controllo da parte mia. Certo, diciamo, senta, quali aumenti ha notato? Che cosa comprime di più il suo bilancio familiare? Fa delle rinunce, Eddie, per sé e per la sua famiglia? Onestamente sì, la spesa veramente generi alimentari alcune volte bisogna rinunciare, al di là della varietà in questo momento adesso dei pomodori, ma dei prezzi esorbitanti su alcuni prodotti che fino, per dire, a qualche tempo fa acquistavo con facilità e senza problemi, insomma. Grazie Eddie, devo salutarla perché ho veramente pochi minuti. Io ricordo che peraltro quello che Eddie denuncia è stato denunciato anche dalla stessa Coop nel suo rapporto 2010 consumi e distribuzione, nel quale si evince intanto il calo delle vendite, e questo lo aveva detto anche l'Istat, lo dice anche Confcommercio, ma addirittura Coop aveva detto che tra tutte le famiglie interpellate i 2/3 di queste viene messo in difficoltà da una spesa imprevista di 1.000 euro, e il 21% delle famiglie interpellate da questo rapporto ammette di avere più difficoltà a sostenere spese necessarie come la cura dei propri bambini. E io qua ho detto tutto. Avvocato Dona, un suo ultimo saluto. Invito più che altro ai consumatori ad essere anche più etici e più responsabili nello scegliere, nel punire chi specula, non andando più ad acquistare laddove gli aumenti sono davvero ingiustificati. Sul social network Facebook c'è il gruppo di Casper, nato oggi, ci piacerebbe raccogliere lì tutti i consumatori di buona volontà. Ah, benissimo, allora ci andiamo subito ad iscrivere, anche io, Gaia Romani, la mia collaboratrice Fabio Cantadori, l'assistenza tecnica. Grazie Avvocato Dona, buon lavoro. Grazie, ci faccia sapere poi che risultato anche ha prodotto questa vostra sollecitazione. Avete incontrato il Presidente Catricalà, peraltro? Il Presidente Catricalà oggi aveva l'influenza, ma abbiamo incontrato il Direttore Generale, il Segretario Generale, un paio di commissari dell'autorità che hanno accolto il nostro esposto e che si muoveranno. Senz'altro, di solito l'antitrust su questo terreno, insomma, si muove come su tanti altri e mediamente, insomma, i risultati arrivano. Grazie ancora. Allora, grazie Avvocato Dona, sentirei Giuseppe da Firenze, perché poi voglio girare anche questa sua storia sia a Masini di Coldiretti che al professor Scarpa. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io sono un produttore di vino. Quindi conosco benissimo anche la Coldiretti, alla quale sono associato, la quale rappresenta minimamente oramai noi agricoltori, perché sono dei passacarte dell'amministrazione pubblica. Non andarci per il sottile, lei. È inutile andarsi a nascondere, cioè oramai basta con questa ipocrisia. Diciamo dove stanno. Sì, fanno quei famosi mercatini, ma capirà, riguardano il 3% degli iscritti, cioè una cosettina. D'altra parte loro non possono perdere i soldi che gli passa l'amministrazione pubblica. Al di là di questo, io produco il vino. Tutti i rischi che ci sono annessi e connessi. Il vino dalla cantina esce a 4,50 euro. Sullo scaffale, quando va bene, il prezzo è di 13-14 euro. Il suo, Giuseppe? Quello delle esatto. Sue cantine? Ah. Sì, il mio. A un ristorante l'ho trovato a 29,50 euro. Vabbè. 600% di ricarico. Secondo lei, di chi è la colpa? Giuseppe, sentiamo un po' se ce lo racconta Masini. Io, naturalmente, quello che ha detto Giuseppe sulla vostra, come dire, qualità di rappresentanti dell'associazione di categoria, vabbè, non interverrei. E le volevo chiedere, insomma, se ci può spiegare questa storia del vino. Sì, no, dicevo, sicuramente non è un nostro socio, perché non si dà dell'oro ad un'associazione alla quale uno si appartiene. A parte la battuta, è il problema che stiamo tentando di affrontare con la vendita diretta, cioè siccome oggi la grande distribuzione è il canale attraverso il quale sono commercializzati circa l'80-90% dei vari generi alimentari, riteniamo che occorra costruire un canale alternativo. No, tra l'altro io adesso, perché non abbiamo più neanche Giuseppe, avrei voluto capire su quale supermercato aveva visto, perché se produce nella zona del Fiorentino, adesso non so dove abbia le sue vigne, e poi magari il supermercato è lì vicino casa, vorrei capire anche quanti chilometri fa questo vino prima di arrivare là, chilometri tali da giustificare appunto una lievitazione del prezzo così elevata. Perché un prodotto magari ottenuto in un campo, in una stalla magari della Toscana, poi ha un centro di raccolta e di organizzazione per quanto riguarda il marketing a Bologna, da Bologna e viene poi ridistribuito in tutti i luoghi, magari nello stesso nella stessa zona di produzione originaria. Quando le distanze sono lunghe, sono vere e proprie distorsioni, ma e la raccolta delle grandi quantità necessarie a rifornire gli assortimenti dei supermercati che crea queste distorsioni. Insomma, costi che si socializzano un po' tra tutti. Io, tra l'altro, Masini, devo veramente interrompere anche la mia chiacchierata con lei, si è terminato, perché vorrei andare a concludere anche con Scarpa la trasmissione volata. Solitamente a Salvadanaio interpelliamo degli ospiti per dare così soluzioni, indicazioni concrete ai consumatori su come comportarsi. Oggi in realtà abbiamo messo in questo cesto tantissimi argomenti, ci siamo fatti anche noi portavoci di questo problema perché è molto serio per molte famiglie. Io però, professor Scarpa, voglio chiudere con lei perché mi interessa capire come mai il prezzo, la tariffa dell'acqua è aumentata così tanto negli ultimi anni, perché questa è una denuncia che fa anche il vostro osservatorio Utilitatis. Ma è una denuncia, una constatazione. Esatto, perché anche il Ministero dell'Economia lo dice, sì. Infatti, purtroppo la situazione è questa. Cosa significa? Significa che partiamo da un livello di partenza molto basso, da esigenze del sistema idrico che sono purtroppo enormi e costose. L'acqua costa mantenerla pulita, perché l'acqua non arriva pulita al distributore che poi gestisce la relazione col cliente, arriva tipicamente inquinata, quindi c'è un problema di depurazione, c'è un problema di smaltimento successivo, c'è un problema di fare manutenzione delle reti, che hanno delle perdite, come è noto, assolutamente clamorose. Questo purtroppo ha un costo. Scontiamo, direi, decenni di una gestione a dir poco artigianale del problema, che adesso deve essere invece veramente presa in mano. Esatto, anche perché con l'acqua non abbiamo le stesse opportunità che abbiamo con il supermercato, che se non ci piace i prezzi che pratica magari ne possiamo scegliere un altro, come per esempio come con la banca. Qua si può fare poco, professore, no? Si può fare poco, però teniamo conto del fatto che tutti i prezzi delle risorse idriche sono prezzi determinati da una qualche autorità pubblica, per certo. Cui credo che abbiamo modo di farci sentire presso i nostri rappresentanti politici e stimolarli a darci magari forse anche un prezzo leggermente più alto, ma anche una qualità e una affidabilità del servizio diversa da quella. Sì, perché di poi lì le famiglie effettivamente qualche sacrificio economico per una qualità dei servizi più alta è disposto a farlo. Grazie a tutti per essere stati con noi, puntata vivacissima. Abbiamo sentito cosa sta succedendo a Roma in questa manifestazione delle associazioni dei consumatori contro la prevista stangata dei prezzi in autunno. La monitoreremo e naturalmente rimetteremo insieme magari tutti gli ospiti di stamattina. Intanto Salvadanaio torna domani, ci sarà con voi Valeria De Rosa. Buon fine settimana a tutti, ve lo faccio già adesso l'augurio e buona giornata. Salvadanaio.